Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. Buongiorno, 800 24 00 24. Oggi con l'elefante parliamo della Sardegna, delle elezioni in Sardegna. Mi era venuto in mente, se non vi dispiace troppo, l'esistione in Sadro. A Salvini di questa campagna elettorale, che è durata già 40 dissi, cioè 45 dissi. Mancai con un duo che detraballo un pruso, ma mancai con questa possibilità di spuedo, mi arribiti un po' che pruso attrato. Ecco, però, questo è il messaggio, un messaggio autoctono, diciamo, di Renato Soru al popolo sardo. Poi c'è il messaggio di Silvio Berlusconi a nome di Cappellacci. Soru è veramente un personaggio particolarissimo, perché è un incantatore di serpenti. È una persona che è fallita in tutto quello che ha fatto. È fallito come imprenditore, è fallito come politico, è fallito come governatore della Sardegna. Beh, diciamo che il messaggio di Berlusconi è risultato più chiaro, infatti il candidato di Berlusconi ha dato 9.9 a Soru nel confronto. Detto questo, però, siccome non mi piace mai infierire sui perdenti, bisogna riconoscere che Soru si è comportato bene, ha fatto un discorso di concessione molto dignitoso e ha anche fatto molti auguri dicendo che continuerà il suo impegno nel Partito Democratico, al Partito Democratico stesso, che è stato un po' all'origine delle sue disavventure, perché poi queste elezioni nascono da una sconfitta in Consiglio regionale di Soru, alla quale Soru ha reagito con le dimissioni, scioglimento del Consiglio, nuove elezioni, che è sempre una cosa molto azzardata in politica. Però ci sono fattori diversi in questo risultato, che certo è terribile. Adesso lo analizzeremo in tutti i suoi risvolti con i nostri illustri ospiti. Io il fattore che mi colpisce di più è il fattore simpatia, cioè Soru si è presentato come una persona seria, no? La serietà al governo, lo slogan di Prodi, ve lo ricorderete, delle penultime elezioni politiche. Sempre vestito di scuro, il discorso in sardo, anche quello serioso, e poi in generale, diciamo, io sono qui per servire l'amministrazione. Berlusconi si è presentato con tutta la sua spavalderia, con tutta la sua follia, con tutta la sua improbabilità. Ha tirato fuori un candidato che non c'entrava molto. Sì, vabbè, certo, aveva un'esperienza a Cagliari nell'amministrazione, ma insomma, figlio del suo commercialista, ha dato l'impressione Berlusconi è molto sardo perché ha molte case in Sardegna, ma non c'entra niente con la Sardegna. Però si è messo lui, ci ha messo la faccia, come ha giustamente rivendicato dopo la vittoria. Tutte le condizioni erano radunate perché la serietà al governo trionfasse e Berlusconi fosse sconfitto. E invece questa operazione simpatia, se fatta da Berlusconi, se incentrata sulla sua persona, sulla sua faccia, sui suoi modi, persino sulle sue barzellette, che insomma, sì, fanno ridere, ma non sempre, non proprio sempre, vince. E oggi l'Italia è proprio pronta, permeabile, matura, come un buon fico sugoso, a accettare sempre e comunque Berlusconi. I suoi consensi dalle ultime elezioni politiche in poi sono, pensate a Roma, pensate all'Abruzzo, pensate adesso alla Sardegna, inscalfibili. Ne parleremo con Lucia Annunziata, editorialista della Stampa, conduttrice di In Mezz'ora e adesso anche della rassegna stampa di Radio 24 per questa settimana. Ne parliamo con Federico Geremica, editorialista della Stampa, e con Mario Secchi, che è vice direttore di Panorama e capo della redazione dell'Ufficio Romano, quello politico, diciamo, del settimanale. Buongiorno Mario Secchi. Bene, Sardegna 800 24 00 24, il voto, la clamorosa vittoria di Ugo Cappellacci, e cioè di Silvio Berlusconi, per ben 9 punti. Stracciato il presidente uscente Renato Soru, astro nascente del PD. Parliamone intanto con Federico Geremica, che è il più lontano, perché Lucia Annunziata e Mario Secchi sono invece qui in studio. Geremica, secondo Giannini, editorialista di Repubblica, a Berlusconi è riuscito di fare presidente il suo cavallo, come Catilina, dice lui. Vabbè, diciamo come Caligola, non come Catilina, ma insomma... Però, perché è Caligola l'imperatore pazzo che propose come senatore un suo cavallo, e invece Catilina era un rivoltoso cesariano, diciamo. Va bene, Geremica, com'è stato possibile prima di tutto secondo lei? Perché? Ma intanto perché gli era già riuscito altre volte, insomma, non mi pare sia il primo caso in cui, diciamo, delle personalità politiche di non primissima grandezza, no, vengono beneficiate dal sostegno di Berlusconi. E poi perché Giuliano c'è poco da fare, insomma, quando il vento va in una direzione è molto complicato, diciamo, navigarci contro. E in Sardegna, peraltro, io non credo, come dicevi tu all'inizio, che ci fossero proprio tutte le condizioni, diciamo, per un'agevole riconferma di Soru alla guida della regione. Insomma, lì c'erano state tensioni molto forti, addirittura già questa estate, all'interno del partito maggiore che sosteneva Soru, cioè il PD. Ricorderai che si era ricorsi addirittura all'intervento dei tribunali e dei giudici, insomma, per tentare di dirimere l'elezione del segretario regionale in Sardegna. E questa è stata, diciamo, una vicenda che ha pesato molto negli sviluppi successivi. Lo sviluppo successivo qual è stato? Quello che tu stesso hai in qualche modo definito un po' un azzardo, no? Cioè l'andare a una resa dei conti con la sua maggioranza, a proposito, diciamo, di un importante testo di legge urbanistica per l'isola, e quindi accelerare, andare allo scioglimento e lanciare il guanto di sfida a Berlusconi. Questo lascia delle tracce nei partiti, tant'è vero, diciamo, che tra le tante cattiverie che cominciano a circolare all'interno del Partito Democratico, anche qua a Roma, si parla addirittura di un voto disgiunto, quello che avrebbe dovuto in teoria aiutare, diciamo, Soru nella corsa contro Cappellacci, di un voto disgiunto ai danni di Renato Soru. Viene citato il caso di alcune sezioni dove alcuni candidati del PD... Parliamo chiaro, insomma, molti del Partito Democratico avrebbero votato Cappellacci in odio a Soru, questa sarebbe la cosa. Stavo dicendo in chiaro. Allora, nella dimensione sarda, Mario Secchi, che viene dall'isola, sì, che è stato giornalista e direttore dell'Unione Sarda, forse anche lui ci può dire qualcosa, poi sbarchiamo subito a Roma, sì, per vedere le conseguenze politiche di questo voto. Guardi Ferrara, io ieri notte ho visto i dati che davano questa vittoria a Valanga e mi sono ovviamente interrogato, anche se da sardo, da giornalista che ha lavorato là, avevo già un'idea. E mi sono ho cominciato a leggere un libricino che poi ho portato qua a lei, di Gonario Pinna, che si chiama Il pastore sardo e la giustizia, per cercare una risposta. Ebbene, io la risposta l'ho trovata alla prima riga, dove si cita un antico proverbio sardo che dice: mezus manchet subane che sa giustissa, cioè, meglio che manchi il pane che la giustizia. La giustizia dunque presupponeva che vi fosse un'ingiustizia, ed era quella rappresentata al governo e dalla giunta Soru. Io potrei farle un elenco infinito di errori e di cose vissute come un'ingiustizia. Le dico solo: il blocco dell'edilizia sulle coste, l'incredibile tassa sull'uso dal gettito zero che costava più riscuoterla che imporla, la tassa sulle case sulle seconde case degli immigrati, che erano vere e proprie casette, il blocco della formazione professionale, il blocco del credito all'agricoltura che ha portato numerosissime aziende agricole a chiudere. Francamente era vissuto così, e come lei ha detto c'era la simpatia, per forza ci deve essere un sentimento contrario, cioè l'antipatia. Soru era antipatico, questo purtroppo è emerso. Eppure aveva la fama di essere intanto il creatore a suo tempo di Tiscali, poi quindi un uomo fatto da sé, un imprenditore, uno che veniva fuori dalla politica, poi non uno della nomenclatura del Partito Democratico, diciamo i vecchi apparati, ma anzi un astro nascente, uno che si poteva candidare a succedere a Veltroni come uomo della società civile, e poi il modernizzatore, e poi l'ambientalista, perché questa storia delle coste, naturalmente adesso vedremo come va a finire, speriamo non con dei fuenti sardi, diciamo, con dei mostri edilizi sulle coste della Sardegna, non credo, non c'è ragione di pensarlo, però insomma lui aveva fatto questo blocco, 3 chilometri dalle coste non si costruisce più, e lei dice che tutto questo non gli poteva rendere, anzi gli ha dato solo... gli hanno ociuto, il voto parla chiaro, gli hanno ociuto. Ma perché il popolo sardo è avido di fare strame delle regole, della decenza amministrativa, o per qualche altro? No, il popolo sardo, lei sa bene, è educato, forgiato e è stato anche colpito dalla dominazione piemontese, quindi in realtà vi è un forte rispetto delle regole. Vi è però una grande insofferenza per i divieti totali. E Soru si è contraddistinto per una politica del no, molto forte, molto accentuata. Mi ha colpito un'altra cosa ieri sera di un alleato di Soro, diceva dopo il momento della distruzione per noi doveva arrivare quello della costruzione, cioè il proseguo della legislatura. Evidentemente è stato distrutto tanto, soprattutto nella fiducia ai sardi. Come reagirà Veltroni, Lucia Annunziata? Come reagirà? Perché è un colpo devastante per lui, dopo l'Abruzzo, dopo Roma, dopo le elezioni, adesso e poi partito. Intanto io spero che lui non reagisca come la hostess Daniela Martani, che oggi su un giornale molto importante ha detto: vedo un complotto contro di me. Per dire, c'è sempre la via d'uscita del complotto a sinistra, insomma, no? Quindi spero che questa non sia la strada, perché se le hostess ormai sanno di questa cosa, potremmo evitarcela in politica. Naturalmente l'exit strategy è già stata disegnata 2 giorni fa da Tonini, che io considero la maggiore intelligenza, il senatore Tonini, che considero la maggiore intelligenza oggi dentro, la più forte, la personalità più forte dentro il PD veltroniano, che è quello di fare adesso, prima delle europee, il congresso, in maniera che secondo me è una via d'uscita vera, cioè, perché se si facesse adesso Veltroni potrebbe andarsene e non affrontare neanche le elezioni. La verità è che insieme a Veltroni è stato però sconfitto anche tutto l'altro correntismo, perché non esce bene nessuno da questa cosa, perché se ci sono alcuni che fanno il complotto non gli è andata bene, perché comunque se si tratta di Dalemiani, Bersani è uscito sconfitto pure, perché come dire non aveva appena fatto un comizio per il candidato al sindaco di Firenze Venturi. Sì, no, ma poi voglio dire, nell'insieme, ecco, mi pare che questa sia una... Letta aveva ampiamente appoggiato, Parisi aveva appoggiato, cioè onestamente a dirla con Veltroni, per dirla con Veltroni, Veltroni tutti ci hanno messo un sarebbe il primo caso politico in cui in un partito perdono tutti. Quelli che comandano, perciò dico, che inviterei Veltroni a non uscirsene come la Martani. Ma detto questo, secondo me la questione di fondo è che comunque prima delle elezioni europee bisognerà decidere qualcosa, perché io non credo che Veltroni vorrà andare veramente a fare le europee lui a questo punto. Ma Geremica, non credo neanche che lo voglia fare. Spieghiamo al nostro Bersani pubblico che significa il congresso anticipato. Non c'è un vero congresso previsto dallo statuto del Partito Democratico, che è un partito nuovo, non più le tradizioni comunista e democristiana, eccetera. Si tratta di riunirsi un paio di giorni, fare 2 chiacchiere e presentare delle piattaforme. Dopodiché il vero congresso sarebbero elezioni primarie in cui si sceglie il nuovo leader. E poi le europee. Tutto questo dovrebbe essere fatto a metà aprile. Succederà secondo lei? Perché per ora è prevista solo una conferenza programmatica, cioè una conferenza programmatica, come ricordava Lucia Annunziata, Tonini ha suggerito negli stessi giorni di far fare invece appunto questa assise, che loro continuano a chiamare congresso, anche se congresso non è, e di fare nelle settimane immediatamente successive le primarie. Io l'altro giorno, parlando con un esponente dalemiano del PD, mi sono, insomma, prospettandogli questa ipotesi, mi sono sentito rispondere diciamo, sì, così arriviamo alle primarie avendo i gazebo davanti ai seggi elettorali già di fatto aperti, cioè volevano dire non c'è tempo per fare questa operazione. Io adesso non so se, come dire, i tempi tecnici ci sono, non so naturalmente l'esecutivo del PD che si riunisce stamattina e sarà una riunione certamente poco serena, deciderà per questa accelerazione, però mi pare di poter dire che se insomma ci fosse un candidato alternativo e ci fosse stato un accordo ampio su come procedere, la cosa sarebbe già avvenuta. Io ho la sensazione invece che non hanno a disposizione né un anti-Veltroni, diciamo, da mettere in pista in tempi così veloci, ma più complessivamente io, insomma, ho la sensazione che lì non ci sia più accordo nel PD su che cosa fare da adesso in poi. Insomma, ci sono parti di questo partito, diciamo, che poi è la somma di 2 partiti diversi, eccetera, che come è noto, secondo molti già lavorano, diciamo, per un'uscita dal Partito Democratico. Allora, in queste condizioni, riuscire a mettere in piedi un congresso anche non tradizionale, come tu ricordavi, diciamo, e cambiare la leadership, eccetera, A me mi pare... Sì, è una situazione terribile. Il che naturalmente non è del tutto apprezzabile, comunque la si pensi, anche se la si pensa, no, diciamo, nel senso del centrodestra di Berlusconi, perché non avere un'opposizione, lo dico con sincerità, no? Non, è allarmante in un paese democratico. Giacomo da Cuneo per un parere, diciamo, fair, cioè di buona creanza, equilibrato verso Soru. Giacomo da Cuneo. Giacomo. Allora, buongiorno a tutti. Io sono un elettore di destra, ma su Soru non la penso come Berlusconi, perché Soru è una persona molto intelligente. Il suo tempo ha fatto la proposta, per esempio, di spostare il limite delle costruzioni dalla spiaggia fino a 6.000 metri. È un provvedimento che avrebbe, se passato, distribuito ricchezza. Dopo dopo chi si è fatto i soldi con le terre a mare, ecco che fascia su fascia, andando sempre più indietro, ci sarà chi si fa i soldi con le terre. Bene, attestato di stima per l'ex presidente Soru. Gabriele da Cagliari, invece, mi pare di no. Gabriele. Buongiorno a tutti. Io sinceramente volevo solo farle un appunto, se posso. Prego. Cioè, l'introduzione al programma è stato, penso, per una questione radiofonica, di spettacolo, incentrata sul fatto che Berlusconi abbia messo la faccia sulla campagna elettorale di Capellacci e abbia vinto. Il discorso per i sardi, che notoriamente sono un po' di sinistra, nel senso che... Non si vede bene, dal voto non si vede bene, però io le faccio finire. No, dal voto no, però è comunque una regione di sinistra, non tanto Cagliari come città o provincia, ma più Nuorese e tutta la Sardegna, a mio parere. Poi probabilmente il sardo più di sinistra che io conosco è Cossiga. Che in teoria dovrebbe essere di centro. Senta, comunque, io penso che Soru abbia pagato nella sua il governo che ha fatto, nel senso che è stato un governo che aveva molte idee in campo, ma non le ha realizzate, nel senso che ha fatto un immobilismo della Sardegna, i 2 chilometri dal mare. Capito. Lei è d'accordo con Sechi, l'ha sentito Sechi prima, è stato tranchant, ha detto che qui c'è una responsabilità amministrativa dell'ex presidente che ha fatto delle cose che ai sardi non piacevano. Va bene, la ringrazio, pubblicità, e tra poco riprendiamo con le conseguenze nazionali del voto della Sardegna, che è una regione politicamente importante. Non userò la formula orrenda e abusata della regione laboratorio, una volta si dice della Sicilia, si è detto anche dell'Abruzzo e persino del Molise, no, della Campania, tutte le regioni sono tutti laboratori, no, la Sardegna non è un laboratorio, però è importante, 1,5 milioni di elettori, in Sardegna si leggono un sacco di giornali. È una regione dove si fa la classe dirigente, abbiamo avuto 2 presidenti della Repubblica. È una regione colta. Giuliano. È una regione colta, importante, insomma, politicamente è d'avanguardia, poi c'ha tanti difetti come tutte le nostre regioni, come tutti noi. Domandina provocatoria e a tradimento, 800 24 00 24, stiamo parlando delle elezioni in Sardegna e della clamorosa, netta vittoria di Ugo Capellacci e per lui di Silvio Berlusconi contro Renato Soru. Ma non è che il centrosinistra, Lucia Annunziata, ha perso, e poi lo chiedo anche agli altri nostri ospiti, Mario Secchi e Federico Geremic, non è che ha perso tutti i voti cattolici tutti insieme per sempre? No, perché queste elezioni avvengono esattamente a 5 giorni dalla conclusione tragica del caso Englaro e a conclusione di 3 settimane che hanno dominato la coscienza pubblica nazionale, nelle quali c'è stato uno scontro. No, non lo so, io penso di no, per esempio. Non lo so, Giuliano, sono particolarmente fuori da questa capacità di valutare queste cose, perché io il mondo cattolico non lo capisco, non so come sta dentro il PD, posso fare come riferimento Mannheimer, che ieri diceva che la questione di Eluana ha portato a una caduta verticale della fiducia in tutte le istituzioni, destra, sinistra, Quirinale, Rai, giornalisti, eccetera, eccetera. Su questo io francamente non saprei dire. Io credo semplicemente che... Facciamo una risposta secca su questo punto. Secchi, su questo. Credo proprio di sì, anche perché altrimenti perché gli ex centristi della Margherita pensano alla scissione? Rutelli l'ha detto chiaramente qualche giorno fa. No, veramente qui da noi ieri lo ha negato. Sì, no, ma io... Però quando si è vero che l'UDC ha fatto un grande salto avanti. Dire. L'UDC è andata molto bene. È andata molto bene, quindi questo potrebbe forse aiutare il tuo ragionamento. Il 10%. Sentiamo Federico Geremica, no, è un'ipotesi laterale, però da vagliare. Geremica. Ma insomma, io non mi pare tanto, insomma, non credo che sia quello il punto, peraltro per quanto può valere, perché parliamo naturalmente di platee elettorali differenti, ma per esempio le primarie che si sono fatte a Firenze, insomma, che pure sono state importanti, 37.000 votanti, eccetera, eccetera, hanno premiato, diciamo, due esponenti cattolici del PD, insomma, quindi io non la metterei così, non è questione di voto cattolico, fosse solo quello sarebbe paradossalmente più semplice. Mm-hmm. E voglio dire, adesso per arrivare proprio al dunque, stasera c'è il pranzo di gala in cui si decide il futuro della RAI. Soru ha denunciato l'invasività nei mezzi di comunicazione di Berlusconi, che avrebbe parlato molto più di lui, che avrebbe dilagato, eccetera, eccetera. Effettivamente Berlusconi, quando ci si mette, sa come praticare, diciamo, il video e non si risparmia. Però insomma, la cosa poi è complicata, perché lo stesso Soru si è fatto beccare in conflitto di interessi, si è comprato l'Unità, ne è diventato l'editore, ha fatto una legge in Sardegna per cui non poteva diventare presidente chi fosse editore di un giornale. Ha dovuto cedere la proprietà, è diventato mero proprietario. Ha promesso che non avrebbe mai telefonato, nemmeno una volta alla settimana. Sì, infatti l'Unità oggi ha fatto una copertina dicendo ha perso la Sardegna, che insomma, è come dire, abbastanza, si è avvolta, diciamo, però dignitosamente nella bandiera della sconfitta. Però ecco, dico, non so, la sensazione è che siamo di nuovo a uno di quegli snodi, quei momenti politici in cui si fanno conti seri, ecco, con la realtà del potere, eccetera. E, per esempio, un D'Alema, che è un oppositore di Veltroni, al tempo stesso però, diciamo, nella finzione di un sostegno collettivo, c'è questa idea degli oligarchi alla testa del PD. Come può risparmiarsi di affondare il colpo adesso? Cosa deve aspettare? Le europee? Ma, insomma, diventa una bollitura un po' eccessiva di tutto il partito, non più solo della segreteria Veltroni. Quindi io azzardo una cosa: D'Alema esce allo scoperto, ha già presentato la candidatura di Bersani, e dice basta, sconvolgiamo tutto lo schema, non c'è più la vocazione maggioritaria del PD unico, dobbiamo rifare le alleanze sia verso il centro se possibile, sia verso la sinistra. Ieri si è visto con Bertinotti, hanno fatto un po' una una muina, eccetera, e insomma, stamattina al coordinamento D'Alema dice cambiare tutto, dirigenti e linea politica. Possibile? Intanto io penso che se D'Alema esce non può uscire sull'idea di cambiare linea politica, eccetera, eccetera, ma può uscire solo annunciando una rottura. E quindi questo mi fa pensare che lui non può uscire oggi. Io vi dico la mia personale opinione su questa cosa. Sono certa che D'Alema non vuole fare il segretario di partito. Il ruolo che D'Alema si è preso, questa mia personalissima opinione, è quello dell'esecutore testamentario. Cioè, nel senso che dice... Biologico. Dentro questa... la biopolitica. Nel senso che dice, qui c'è una grande eredità che si sta andando a disperdere e io sono il guardiano delle chiavi, sono l'avvocato che sta sul testamento. La scelta di Bersani è una scelta che va nel senso di dire lui è l'erede mio nel caso a me succeda qualcosa. Ma se volete sapere la verità, io non penso che Bersani oggi avrebbe moltissime più chance di quante ce ne ha Veltroni. A meno che, appunto, il progetto non sia quello di fare un nuovo centrosinistra con una traiettoria operaista radicale da una parte e una scissione del centro, e allora l'operazione di D'Alema potrebbe essere fatta stamattina, domani, e Bersani potrebbe andare bene. In sintesi, per i nostri ascoltatori, io penso che D'Alema oggi stia lavorando a un progetto conservatore e che Bersani è una nomina conservatrice di salviamo il salvabile. Quindi in questo senso D'Alema non ha un progetto alternativo a Veltroni. Meloni domani mattina. Bene, molto chiaro, ma invece dall'altra parte, Secchi, si è detto che Berlusconi stava strafacendo, che mettendoci la faccia nelle elezioni in Sardegna rischiava poi, nel caso di una sconfitta di Cappellacci, cosa tutt'altro che improbabile, nei sondaggi erano proprio testa a testa, rischiava di perdere autorità, prestigio, forza nel governo della sua coalizione. Perché oggi, paradossalmente, Berlusconi stravince dopo aver strafatto in una coalizione dove è stato abbastanza sfidato, perché Fini gli ha detto che non si va contro Napolitano, che sulle questioni diciamo etiche poste dal caso Englaro lui la pensava in modo radicalmente opposto. Bossi gli ha detto che la Costituzione e il tricolore sono per lui irrinunciabili. Ecco, cioè sono successe delle cose veramente curiose nel centrodestra. Secchi, che succede adesso? Mette tutti in riga? Non ha neanche bisogno di farlo? È implicitamente chiaro che è veramente l'unico leader possibile sul piano dei consensi? Com'è la faccenda? Questo mi pare indiscutibile, che sia l'unico leader possibile, perché finché vinci non si cambia, no? Devo anche dire che la tentazione vista dalla parte degli alleati un po' riottosi è quella del game over, cioè di fine delle discussioni in qualche maniera, anche se io credo che poi dovendosi riaprire a brevissimo, vorrei ricordare, non solo il tavolo delle europee ma quello di un turno amministrativo molto corposo, ci saranno delle discussioni sulle candidature. Ma finché Berlusconi fa il kingmaker, quindi sceglie il candidato, fa la campagna elettorale e vince in questa misura, vorrei ricordare che, come giustamente ha sottolineato lei, Ferrara in Sardegna si poteva anche perdere alla vigilia e invece ha stravinto. Beh, finché Berlusconi è così, io penso che non ci sia tripa per gatti, come si dice a Roma. Ecco, Geremica, però c'è l'UDC al 10%, questo che l'UDC con Berlusconi, non contro Berlusconi, al 10%. Questo che significa? Che Casini potrebbe ripensare a tutto il suo ruolo, e qualche giornale oggi mi pare lo accenna. Casini, che viste le elezioni sarde, decide di cominciare una marcia di riavvicinamento. L'opinione mi pare che dice una cosa del genere. Com'è la faccenda? Ma insomma, questo è anche possibile, non ci sarebbe da meravigliarsi. Come dire, osta un po' il fatto che da quella parte i posti mi sembrano già tutti occupati, quindi insomma vedo che c'è anche qualche resistenza, diciamo, a far entrare l'UDC. Secondo me l'UDC invece rappresenta il più visibile, secondo me, e anche il più dannoso degli equivoci del Partito Democratico di matrice veltroniana, insomma. Questa faccenda della vocazione maggioritaria che ha portato da una parte, come alla distruzione degli antichi alleati. Io adesso non voglio nemmeno entrare nel merito, cioè è stato giusto, è stato sbagliato, insomma, non si poteva governare con la sinistra radicale, sono questioni già discusse. E ha, come dire, elevato al rango di miglior alleato possibile proprio l'UDC di Pier Ferdinando Casini. Ma insomma, qui però c'è un equivoco di fondo, perché l'UDC è all'opposizione nel Parlamento nazionale, anche poi con prese di posizioni molto spesso, guardate adesso che è successo in materia, per esempio, di testamento biologico, che sono più vicine alla maggioranza che all'opposizione. Ma nel resto del paese, ogni volta che si va a votare, sta con Berlusconi. Allora, diciamo, così il PD certamente non ne viene a capo, insomma. Le alleanze si fanno in due. Sono mesi che dal vertice del PD si indica l'UDC come alleato privilegiato, dall'altra parte mi pare che arrivino risposte tipo quella sarda, insomma. È un altro dei nodi da sciogliere rapidissimamente, ma appena una velocissima erosione ulteriore di consensi del Partito Democratico, secondo me. La palla, insomma, è tutta nel campo di questo povero Partito Democratico, che era partito con grandi speranze, grandi sogni, superare vecchie barriere storiche, strappare antiche radici, costruire qualcosa di nuovo, far fiorire una nuova esperienza, ma proprio non ce la fa. Ma perché è così difficile costruire una forma politica nuova in un sistema dove, diciamo, le cose stesse portano in quella direzione? Perché con un Berlusconi che è riuscito a federare tutto il centrodestra, dalla destra estrema, insomma, forse per Berlusconi anche Storace sarebbe della partita, fino al centro, insomma, che è poi rappresentato da lui, da Forza Italia, da questo partito stranissimo, nel senso che è un partito che fa riferimento a lui, ma poi si radica in modi suoi. Allora, dall'altra parte ci deve essere una forza del 40%, del 35%, no? E invece vediamo l'implosione, il crollo. Il PD in Sardegna è sceso sotto il 25%, vi diceva prima Mario Secchi. Qual è il segreto, il mistero di questa difficoltà che c'è nel centro-sinistra e a Io sinistra? Credo che il mistero sia stato oggi brillantemente colto da Massimo Franco sul Corriere, il quale sottolineava un aspetto: il paradosso della sinistra in questa crisi economica è che tutti i problemi della crisi vengono fatti pagare ancora alla sinistra, che è all'opposizione invece che al governo. Io credo che questo sia un po', dentro questa questione qui si nasconda il vero problema della sinistra, cioè la sinistra non ha nessuna fiducia da parte dei cittadini normali sulle sue ricette di soluzione. Comunque una sinistra che ogni volta... perché guardate, tutte le balle del partito, noi ci divertiamo, è questo, è quello, è quello, ma la gente non ne frega niente. Insomma, dire che è stato per questo o per quello, si divide... Eppure i capitalisti non godono di buona reputazione oggi. Berlusconi è un capitalista. Però, perché, sì, perché però la questione rimane questo. Io penso che si sottolinea valuti il fatto che questo partito, comunque l'esperienza della sinistra è stata vista come una sinistra autoritaria da un punto di vista economico. Un punto di vista diverso dal solito. Mario da Milano. Mario, ho visto nella scheda una curiosità nel suo pensiero eccentrica rispetto a quello di cui stiamo parlando. Prego. Sì, risponde in parte anche a questa difficoltà del Partito Democratico di affermarsi. Cioè, secondo me, gli italiani... io non sono un esperto di storia, ho letto qualcosa, ma gli italiani non hanno bisogno di un, non sentono il bisogno di un leader politico o di un amministratore, sentono il bisogno di un leader di tipo religioso, non so se sto usando un termine che si capisce, hanno bisogno di una guida. Per questo Berlusconi vince, anche se fa poco alla fine per il paese, perché... Ma in che senso lei dice religioso? Perché Berlusconi, anzi, adesso sì, nel caso di... ha detto sono anarchico. Religioso in senso sui lato. Sui valori. Religioso cioè? In senso lato. Hanno bisogno di qualcuno che gli dica magari anche cose false, ma che li faccia sognare, sperare. Per questo vince. Un carisma, insomma, di legarsi ad una specie di utopia, anche una cosa che magari non è realistica ma che li ispiri, e la sinistra non sarebbe capace di ispirare. Eppure Veltroni era il tipico leader che gli americani avrebbero definito inspirational, la bella politica, le nuove forme, non so, Geremica, può essere che questo sia un problema? Ma insomma, sicuramente lo è, perché, come dire, poi il carisma storicamente fa parte delle qualità che anche in Italia vengono richieste a un leader. Ma a proposito del carisma di Berlusconi e del centrodestra, per riprendere una cosa appunto che dicevi tu prima, il carisma di Berlusconi è, come dire, indubbio ed è stato sperimentato, diciamo, più volte. Io non sono convinto, diciamo, che lo stato di salute del centrodestra invece sia, come dire, a livello del carisma del suo leader. Io non so se voi avete finalmente finito, diciamo, questo interminabile spoglio sardo, che è una cosa veramente d'altri tempi, diciamo. Ma insomma, anche il Popolo delle Libertà mi pare che perdeva una decina di punti rispetto alle elezioni politiche di un anno fa. Sono abbastanza visibili sotto traccia delle tensioni crescenti, non soltanto, diciamo, tra Fini e Berlusconi, perché quella mi sembra... Ma lì c'è questo partito dei riformatori, sì, che non ho capito. Infatti, chi sono i riformatori? Sono con berlusconiani travestiti? Chi sono? No, è un partito sardo, autonomista, però legato, diciamo, al centrodestra. Si ha preso un po' di voti. Hanno avuto un bel successo, sì, hanno portati via al PDL, immagino. No, era prevedibile, hanno sempre avuto un pacchetto di voti molto consistente. L'UDC anche ne ha presi ancora un po', quindi diciamo il risultato, diciamo, anche lì, insomma, c'è una ridistribuzione del 30% che perde 10 punti rispetto a 10 mesi fa, insomma. Massimo Cacciari, sindaco di Venezia, Partito Democratico, la responsabilità della sconfitta politica in Sardegna non è né di Soru né di Veltroni, e del PD nel suo insieme, è il partito che non va. Tutta la leadership non è all'altezza della situazione, non si affrontano i problemi organizzativi, non si sviluppa un dibattito strategico all'interno del partito, la dialettica è bloccata sulle vecchie leadership, è evidente che deve andare a finire in questo modo. Dice Cacciari, e alla domanda Veltroni oggi si dovrebbe dimettere da segretario del PD, risponde no. No, per delle elezioni di carattere regionale o locale un segretario non si è mai dimesso. Lucio da Verona. Pronto, buongiorno. Eccoci. Buongiorno. Se in Sardegna si fosse presentata Vanamarchi, il centrodestra avrebbe vinto anche Vanamarchi. Perché vede, voi giornalisti così navigati come lei, Ferrara e l'Annunziata, non riesco a capire perché non sanno che si vota solo per i propri interessi. E voglio dire, in un paese dove la furbizia, dove la truffa, in tutti i settori, dai farmaci, dalla sanità, dai fondi europei, dai pomodori, è tutta una truffa. Siamo un paese di truffatori e di furbi. E abbiamo bisogno di un furbo il potere. Pensi che in Trentino io ho degli amici che hanno sempre votato a destra. E hanno votato centrosinistra, anche quando vince centrosinistra c'è bisogno, perché lì il centrosinistra difendeva meglio gli interessi dei privilegi dei trentini, no? Ed è così, non c'è niente, si ragiona sempre col portafoglio, caro Ferrara. Ma che devo fare? Abbiamo bisogno di un furbo al potere per i furbi italiani. Grazie, buongiorno. Buongiorno Lucio. No, volevo solo consolarla, nel senso di dirle che probabilmente lei ha ragione, ma non succede solo in Italia, in tutto il mondo si vota per i propri interessi. Una delle regole della democrazia politica. Salvatore da Roma. Buongiorno a tutti. Volevo sostenere una cosa diversa invece, e cioè che in qualche modo Veltroni non esce sconfitto da queste elezioni, paradossalmente. Questa è interessantissima. Ci dica bene, ce l'argomenti bene, perché. Lei immagini, dottore, se Sorlo avesse vinto. Si sarebbe aperto uno scenario in cui Soru andava ad attaccare direttamente Veltroni in Italia. Queste elezioni in Sardegna sono state una dimostrazione di forza di Soru dentro il PD, contro il PD, non contro Berlusconi. Questa è una cosa interessante di cui non avevamo ancora tenuto conto, effettivamente. La ringrazio. Dunque, Geremica, Soru vincente avrebbe potuto diventare l'alternativa a Berlusconi, l'uomo che viene dalla società, che si è fatto da solo, che vince contro Berlusconi anche quando Berlusconi ci mette la faccia, e dunque un'alternativa di leadership. Essendo stato sconfitto, Veltroni può dormire tra due guanciali. Le sembra realistica questa analisi? No, francamente no. Intanto perché anche la stella in ascesa di Soru in caso di vittoria, eccetera, insomma, si trattava di un capitale da investire ovviamente non alla guida del Partito Democratico, cioè in tempi brevi, in quest'autunno, ma lì la sfida era eventualmente per la candidatura a Premier. Insomma, Renato Soru è uno che per certi aspetti è molto simile a Walter Veltroni. Sembra essere un esponente buonissimo per una campagna elettorale, non altrettanto buono per la costruzione e la guida di un partito. Mentre invece c'è un aspetto politico programmatico che è interessante, secondo me, nel senso che la vera insidia da una vittoria di Soru per Veltroni poteva arrivare forse proprio dal progetto politico programmatico che Soru ha messo in campo. Soru ha richiamato in esplicito il prodismo e il vecchio Ulivo, e poi sul piano dei programmi, puntando molto appunto sull'ecologismo, che era stata una delle palle al piede del governo di centrosinistra, quindi la legge sulle coste della quale abbiamo già parlato, e persino sul fisco, che forse è la ferita mortale che ha subito nella passata legislatura il centrosinistra, ha riproposto un bagaglio programmatico che Veltroni aveva spazzato via. In più ha rispolverato a livello di intensità di 10 anni fa quell'anti-berlusconismo contro il quale era nato il Partito Democratico. Allora, mi pare che l'abbia notato proprio lei nel suo editoriale di oggi. Questo anti-berlusconismo non funziona mai. Vincere in quel modo lì, l'ecologismo sì che sarebbe stato un problema per Veltroni, perché si dimostrava che non è vero che non attaccando Berlusconi non si vince, capito? Quindi un po' quello mi sembra poi il punto politico invece delle... Annunziata, come mai questo fatto? Insomma, Soru era appunto diventato, anche attraverso l'Unità, il suo giornale Concita De Gregorio, che ne aveva cantato le lodi come leader possibile, era diventato il punto di riferimento no, la radicalizzazione dello scontro con Berlusconi di tutta la sinistra, diciamo, girotondina. Giuliano, questa è una cosa molto, era un'altra pia illusione, anzi era, diciamo, una visione nel deserto, perché chiunque, appunto, noi siamo navigati, come diceva il nostro ascoltatore, magari troppo navigati qui dentro, però l'esperienza dell'essere navigati ci insegna cosa è vero e cosa non è vero. Dentro lo stesso PD si sapeva fin dall'inizio che avrebbe perso. Io credo che la vera grande illusione sotto cui il PD vive è quello di non affrontare fino in fondo la sua crisi, ma questo è da 10 anni. Mm-hmm. Che e quindi deve capire che il suo ciclo è finito. Dopotutto Blair è stato 10 anni fuori, Clinton, prima di Clinton ci sono stati 14 anni, è finito un ciclo, finiscono i cicli politici. Va bene, non è proprio il miglior viatico possibile per l'inizio della riunione del coordinamento del Partito Democratico, speriamo che non ci abbiano ascoltato. Grazie a tutti gli ascoltatori, a Enrico da Torino, Maurizio da Pisa, Laura da Udine, mi dispiace di non avere potuto mandare più telefonate, oggi erano pieni di suggestioni e di consigli e di cose, di valutazioni e analisi anche molto interessanti. Grazie a Franca Fossati, Gloria Guerrera in redazione, grazie a Alessandro Chiappini e Giorgio Mattei in regia. Linea Gianluca Nicoletti dopo il GR con Melog 2.0. Grazie a tutti, a domani.